Abbiamo qui in diretta insomma, Francesca di Bifree che è presente appunto al presidio. Francesca, ci senti? Sì, ciao a Ciao. tutte e a tutti. Dunque, prima di tutto ti chiederemo di appunto darci degli aggiornamenti rispetto a come sta proseguendo la mattinata e del presidio. Allora, guarda, le ultime novità sono che per quanto riguarda il processo è stata accettata la costituzione di parte civile da parte della ragazza, della famiglia della ragazza e anche del centro antiviolenza dell'Aquila, che sono appunto le donne che hanno seguito il suo percorso. E quindi diciamo che questa è una notizia positiva e non era scontata. Il processo si svolgerà a porte chiuse, in quanto diciamo anche le altre fasi del processo si svolgeranno a porte chiuse, in quanto è stato chiesto dall'avvocato di lui il rito immediato, quindi diciamo che il processo durerà meno rispetto ai tempi biblici della giustizia italiana e comunque da un lato prevede un'assunzione di responsabilità, di colpa, dall'altro prevede però degli sconti di pena, quindi diciamo c'è questa ci sono queste due notizie, queste due decisioni prese proprio in ambito appunto di questa prima udienza. Per quanto riguarda il presidio, continua e adesso è appena iniziata un'assemblea davanti al piazzale del tribunale di cui appunto è iniziata adesso nel momento in cui mi avete chiamato e quindi non so come si sta svolgendo, ecco. Perfetto. Ma visto che appunto tu fai parte di BeFree, che appunto è attiva nell'ambito insomma, della lotta contro le violenze, soprattutto delle donne che sono vittime di tratta, vogliamo approfittare appunto della tua esperienza per chiederti un contributo, visto che sappiamo che queste donne, oltre a vittime di tratta, spesso sono vittime della violenza indivisa, che, come dire, esercita il proprio potere in maniera molto ambigua. Sì, allora noi siamo una cooperativa di Roma e appunto ci occupiamo di donne vittime di violenza o di grave sfruttamento sessuale e lavorativo. Abbiamo diversi sportelli, uno per esempio all'interno di un pronto soccorso che ha avuto un po' di vicissitudini, di strane vicissitudini, nel senso che è stato prima chiuso perché non c'erano i finanziamenti, le operatrici l'hanno tenuto aperto lo stesso, nonostante appunto non ci fossero questi finanziamenti. Adesso, dopo mesi di attesa, questi finanziamenti sono ritornati e quindi lo sportello a giorni riaprirà H24 e ha il compito di accogliere le donne che si recano al pronto soccorso proprio in seguito a delle violenze. Oltre a questo sportello abbiamo anche uno sportello settimanale dentro al CIE di Ponte Galeria, al centro di identificazione e di espulsione. Il nostro compito in questo luogo infame è quello di diciamo, intercettare le donne che sono nel corso della loro vita state vittime di tratta, cioè sono state portate da altri paesi, soprattutto dalla Nigeria, con lo scopo proprio di essere sfruttate sul territorio italiano e cerchiamo appunto di far emergere la loro situazione di sfruttamento in modo da poterle inserire in dei luoghi protetti in modo da farle avere anche il permesso di soggiorno, che è un permesso di soggiorno che la nostra legge prevede, la legge 286 del 98, che è la stessa che ha sancito l'inizio, diciamo, dei CPT che sono poi diventati CIE. All'interno dell'articolo 18 prevede la possibilità per queste donne di essere inserite in programmi di protezione sociale. Allora, il CIE, vabbè, voi avete fatto dei lavori magnifici sui centri di identificazione e di espulsione, quindi diciamo che sappiamo tutti, no, di quello di cui si sta parlando. Lavorare all'interno del CIE è assolutamente difficile ed estremamente complesso perché sono dei luoghi in cui regna la totale arbitrarietà. nel senso che diciamo, è per natura e per struttura un luogo in cui potrebbe succedere di tutto. Quindi diciamo, le donne spesso hanno paura all'interno del CIE di raccontare quello che succede dentro. Sono pochissimi i casi in cui questa violenza è venuta fuori. Per esempio, vabbè, tutte ricordiamo il caso di Joy, che certo, appunto, ha avuto la forza di denunciare la violenza che aveva subito da parte dell'ispettore adesso dentro al CIE di via Gorelli. Però insomma è un terreno molto scivoloso proprio per questo, cioè proprio perché molto spesso i CIE sono dei muri in cui è difficile entrare e da cui è difficile ottenere anche delle informazioni. La nostra presenza è molto parziale là, nel senso che noi abbiamo questo sportello autorizzato una sola volta a settimana all'interno solamente del reparto femminile, e quindi abbiamo una visione, diciamo, parziale della situazione. L'anno scorso siamo riusciti a far uscire da lì circa 30 donne con un permesso di soggiorno che stavano tuttavia sull'orlo della deportazione, quindi diciamo che sono questi risultati che ci fanno ancora resistere dentro a questo luogo, insomma. Però assistiamo davvero ad uno sfilacciamento completo dei diritti umani in ogni contesto, e adesso è molto più prioritario perseguire per esempio la clandestinità piuttosto che garantire la tutela dei diritti umani. Questo che significa? Significa che per esempio all'interno del CIE di Ponte Galeria noi a volte, e in maniera recente sempre più spesso, troviamo donne che già hanno avuto la forza e il coraggio di denunciare per esempio delle violenze subite, oppure gli sfruttatori che le hanno portate sulla strada, però che quando vanno alla polizia subito dopo la denuncia vengono portate dentro ai CIE in quanto appunto irregolari. Quindi questa è una situazione, diciamo, che abbiamo notato da diversi mesi, cioè abbiamo incontrato dentro il CIE di Ponte Galeria donne che erano state anche ustionate dalle proprie sfruttatrici, oppure avevano subito accoltellamenti, e che una volta curate negli ospedali poi sono state portate direttamente a Ponte Galeria. Allora diciamo che questo ci fa capire quant'è grave la situazione, no? Nel senso che naturalmente questi posti sono posti che non dovrebbero per niente esistere, diciamo, e che quindi nessuno dovrebbe starci dentro. Però se all'interno della nostra normativa ci sono dei buchi per cui per la legge alcune persone ci possono entrare in questi, cioè ci possono finire in questi luoghi, per le donne vittime di tratta al contrario ci sta una legge che dice tutt'altro. Non so se questo... Ok, sì, è chiarissimo. Sì, nel senso, dando per scontato appunto che sono dei luoghi che proprio non dovrebbero esistere, per alcune di queste donne a livello normativo non c'è qualcosa su cui aggrapparsi, ecco, per altre storie di vita non ci sono appigli legali a cui aggrapparsi per farle uscire da lì o per farle per evitare loro la deportazione. Per le donne vittime di tratta invece ci dovrebbero essere questi appigli legali, e quindi non ci dovrebbero proprio finire dentro a questi luoghi. Quindi il nostro scopo appunto è quello di tirarle fuori da lì, e diciamo che per le ragazze nigeriane è un... Io parlo delle ragazze nigeriane perché molto spesso all'interno di Ponte Galeria sono quelle sia più numerose, sia quelle più in pericolo immediato di deportazione, perché l'ambasciata nigeriana è l'unica ambasciata che va proprio dentro al CIE di Ponte Galeria, identifica le ragazze con colloqui di 5 minuti, e dopo questi colloqui di identificazione l'aereo parte dopo 2 giorni. quindi diciamo che mentre per altre nazionalità non ci sono degli accordi tra stati che stabiliscono queste, queste pratiche, invece per l'ambasciata, per le ragazze nigeriane l'incubo della deportazione è reale, diciamo, è concreto, sì. E quindi naturalmente altre ragazze o altre donne che portano con sé altre storie di vita, altre culture, eccetera, eccetera, hanno altri tipi di problemi. Per esempio le donne cinesi, che è molto difficile di cui è molto difficile la deportazione, tuttavia in quel luogo soffrono di un isolamento linguistico totale, tanto che quando noi una volta a settimana entriamo dentro al CIE e abbiamo la mediatrice cinese, la mediatrice di lingua cinese, le donne si assiepano intorno a questa mediatrice perché non hanno capito perché stanno lì, perché hanno dei problemi sanitari che non sono in grado, cioè che i dottori non sono in grado di capire, e tutta una serie di problematiche, diciamo, che le rendono anche, diciamo, molto, molto fragili. Bene, noi ti ringraziamo veramente tantissimo per questo tuo contributo rispetto a quei lager terrificanti che sono i CIE e alle condizioni delle donne che purtroppo continuano a essere rinchiuse là dentro. Ti ringraziamo anche per, appunto, averci aggiornato dal presidio, e ti lasciamo all'assemblea a cui ti abbiamo privata per questa diretta. Grazie mille. Ci risentiremo. Ciao a tutte e a tutti, ciao. Ciao. E questa era Francesca, appunto, che ha a che fare con le donne vittime di tratta all'interno del CIE di Ponte Galeria. Tra l'altro ci sono stati alcuni episodi di cui si è parlato, anche di pestaggi, di violenze all'interno di Ponte Galeria. Ricordo la tunisina, uscì su Fortes Europe, mi pare, della tunisina, che mostrò i lividi dopo un pestaggio. Ci furono anche dei pestaggi a Ponte Galeria dopo un presidio che si tenne proprio fuori dal CIE. Una donna aveva telefonato proprio a Radio Onda Rossa per raccontare il pestaggio subito. La donna aveva raccontato ai microfoni che gli uomini della polizia l'avevano portata in ufficio all'interno del centro per picchiarla insieme ad altre donne. Evidentemente polizia e carabinieri, ma anche il direttore del centro, non avevano gradito la presenza dei manifestanti sotto le mura del CIE e avevano voluto farne pagare le conseguenze alle recluse. Gli uomini in divisa infatti avevano spiegato chiaramente alle donne che il pestaggio era stato una risposta al casino che avevano fatto sabato durante il presidio, e avevano assicurato loro che sarebbero state deportate al più presto nei rispettivi paesi di origine. E poi ancora c'era stata una sentenza nel 2010 che aveva condannato l'ispettore capo del CIE di Milano, questa volta Mauro Tavelli, detto ispettore Mauro, a 7 anni e 2 mesi per aver costretto una trans rinchiusa in quel posto ad un rapporto orale. In cambio le avrebbe promesso di liberarla dal CIE. E poi ancora sempre nel 2010 nei dintorni di Oristano, Don Giovanni Usai, e facciamoli insomma questi nomi e cognomi, cappellano del carcere nonché fondatore e responsabile della comunità Il Samaritano, è stato messo ai domiciliari con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una giovane nigeriana da cui avrebbe preteso un rapporto sessuale in cambio dell'assunzione a tempo indeterminato. E qui mi verrebbe da dire, non ci sono solo le divise militari, ma ci sono anche le divise di quei ministri della Chiesa, che sappiamo insomma che tipo di violenza secolare perpetrino sul corpo delle donne in forma di controllo, di privazione, di sacrificio, eccetera, eccetera. Ma d'altronde, come disse nel 2010 Giovanardi, lo stupro in strutture come i CIE e le carceri può capitare. Commentò un episodio definendolo gravissimo, ma che purtroppo in strutture come i CIE e le carceri può capitare. Così affermava Daniele Giovanardi, il solito fratello di suo fratello che ormai ben conosciamo, commentando un tentativo di stupro avvenuto nel CIE di Modena da parte di 3 reclusi nei confronti di un quarto, un giovane nigeriano.